Ma che serata è? Si manchi proprio te, che musica si dà? E chi se canterà? Questa che festa è? Me pare di vedere negli occhi di chi c'è la gioia di chi sta magnano a festeggiare. L'ultima notte mia, la festa sta a finire, ormai non vieni più, io me ne vado via da qui. L'amici intorno a me mi chiedono di te, tanto per fare una cosa. Saluto e scappo via. Stasera l'allegria può dar fastidio solo a me. C'è un gatto nella via, lo prendo un braccio a me e me cammino piano con lui. Ma che serata è, ma che nottata è, si manchi proprio te. È l'alba e non me va nemmeno di pensare. La festa sta a finire, ormai non vieni più, io me ne vado via da qui. L'amici intorno a me mi chiedono di te, tanto per fare una cosa. Saluto e scappo via, stasera l'allegria può dar fastidio solo a me. C'è un gatto nella via, lo prendo in braccio a me e me cammino piano. Ma che serata è, ma che nottata è, si manchi proprio te, e l'alba e non me va nemmeno de pensare.